Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: chiaramente commenteremo la manovra finanziaria, le novità già le abbiamo raccontate in diretta ieri a partire dall'IVA, ma non solo, sono emersi anche alcuni elementi nuovi, ma soprattutto da più parti si chiede dove sono gli elementi per la crescita. Io devo dire che insomma onestamente non vi sono mai stati fin dall'inizio elementi per la crescita, ma soprattutto per la riduzione e il contenimento del nostro debito, e quindi pareggio di bilancio entro 2014. Dall'altro, obiettivamente, sono un po' scomparsi ed annacquati alcuni provvedimenti, a partire dalla riduzione dei parlamentari, la riduzione dei costi della politica e anche le liberalizzazioni e le privatizzazioni, soprattutto le liberalizzazioni che all'inizio sembravano essere ben presenti nella manovra. I costi della politica mi sembra che siano passati egregiamente in cavalleria, ma sono pronto a ricredermi e a correggermi. Parleremo subito dell'impatto sull'IVA con chi rappresenta il mondo del commercio, perché chiaramente il timore che molti di voi ci hanno espresso è che vi possono essere anche arrotondamenti a rialzo con l'aumento dell'IVA di un punto percentuale. Parleremo però anche di una notizia buona, ossia oggi il governo, il Ministero dello Sviluppo Economico per la precisione, ha fatto sapere che sono state selezionate 5 aziende per lo stabilimento Fiat di Termini Imerese, quello che dove la Fiat produce attualmente la Lancia Y, con 1.350 dipendenti, che verrà però chiuso a fine anno. Ebbene, sono 5 le imprese che si insedieranno nell'area, e poi racconteremo anche con uno di questi protagonisti, l'investimento forse più grosso, quali siano le prospettive e che cosa ha portato alcuni imprenditori a investire in quell'area. E poi anche l'aggiornamento dei mercati finanziari: come ricordavamo nel GR, adesso Milano guadagna il 3,43%, è con Francoforte la migliore, Francoforte più 3,70%. C'è un rialzo generalizzato a livello europeo. La Germania è uscita con un dato sulla produzione industriale molto buono, soprattutto perché i timori erano di un rallentamento nell'economia tedesca. Invece a luglio la produzione industriale tedesca ha fatto più 4% e rispetto a luglio del più 4% rispetto a giugno, rispetto a un anno prima è addirittura più 10%. Tant'è che Angela Merkel oggi, parlando al Bundestag, ha detto che la Germania resta la locomotiva d'Europa e non c'è alcun segnale di recessione e rallentamento nel nostro paese. La Merkel poi ha aggiunto: se fallisce l'euro, fallisce l'Europa, e ha criticato, definendoli assolutamente sbagliati, la via assolutamente sbagliata, l'ipotesi di Eurobond, ossia l'ipotesi che da noi ha proposto il ministro Tremonti, ma non solo. Anche Juncker, il presidente dell'Unione Europea, era a favore. In Germania sono i Verdi e la SPD a essere a favore di un'emissione di obbligazioni a livello europeo, quindi un'obbligazione europea, un Eurobot o Eurobond, come lo chiamano in gergo. Nel frattempo dalla Germania è arrivata anche un'altra notizia importantissima, cioè la Corte Costituzionale tedesca ha respinto la richiesta che arrivava da un gruppo di euroscettici di bloccare la partecipazione della Germania al piano di salvataggio della Grecia. In questo modo la Germania, attraverso la sua Corte Costituzionale, ha di fatto confermato la legalità di questi aiuti alla Grecia. Era un passaggio fondamentale, e anche questo viene registrato in maniera positiva dai mercati, perché se per caso la Corte Costituzionale avesse bloccato la legalità di questo aiuto, non oso pensare che tipo di mercato avremmo visto oggi, perché voleva dire che la Germania avrebbe dovuto rinunciare ai suoi aiuti alla Grecia, o quantomeno ridefinirli con, diciamo, incertezza e forse anche panico generalizzato. Per fortuna così non è stato, e i mercati ne prendono atto. L'euro a quota 1,40,65. Faccio notare che Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli che controlla il gruppo Fiat, guadagna quasi l'8%, 7,90%, Fiat il 7,14%, Pirelli 6,80%, Il Banco Popolare il 6,20, Saipem il 5,92%, il 5,60% il rialzo di Tenaris, il 5,5% quello di ST Microelectronics, il 5,20% quello di Monte dei Paschi, il 4,5% lo guadagna Luxottica e anche Buzzi Unicem, il 4,30% Fiat Industrial e Mediaset, Tod's più 4,1%, Prismian più 4%, Popolare di Milano più 3,90%. Come dicevamo, il rialzo è meno consistente per titoli che molti avevano perso. Penso a Unicredit che guadagna il 3,60% e Intesa San Paolo che guadagna il 3%. Intesa va a 1,02€, Unicredit va a 82 centesimi di euro. Meglio rialzi che ribassi, però sicuramente non sufficienti a recuperare quello che si è perso in queste sedute. Di negativo c'è solo Campari, meno 1,70, e Parmalat, meno 0,30%. Il nervosismo e, se volete, anche in qualche modo la irrazionalità del mercato è ben dimostrata, a mio avviso, da quello che sta succedendo su Fiat. Fiat per sedute intere, in assenza di notizie, ha perso tra il 5 e il 7%, oggi in assenza di notizie guadagna tra l'8 e il 7% nel caso di Exor. Fiat non è successo nulla se non il fatto che sono tornati gli acquisti. Ma non c'è diciamo, nessuna motivazione. Non abbiamo messo il gufo in questi giorni, non mettiamo il gallo oggi, anche perché più 3,5% dopo le sbelle di queste ultime sedute sembrerebbe un gallo così, un gallo drogato, un gallo eccessivamente ottimista. Restiamo senza animali, ma raccontiamo le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Che oggi la situazione sia leggermente più allentata lo si capisce anche dall'oro, che per la prima volta è in calo sui mercati asiatici a 1827 dollari l'oncia. Il petrolio invece è leggermente in rialzo a 87,60 dollari. La cosa interessante è che il Giappone, oggi si è saputo, è il secondo possessore al mondo di riserve di valuta dopo la Cina. Il Giappone ha 1210 miliardi di dollari equivalenti in valuta estera, la Cina ne ha 3000 miliardi, quindi Cina e Giappone assieme hanno qualcosa come 4200 miliardi di riserve valutarie. No, questo per dire poi chi è che ha la forza di muovere il valore del dollaro e dell'euro, oltre ai paesi chiaramente che li emettono e le aree che li emettono, insomma sono questi due paesi. Il nostro GR già ve lo ricordava, il Fondo Monetario Internazionale oggi ha rivisto ancora una volta al ribasso purtroppo le stime sulla crescita mondiale, ha abbassato le previsioni per il PIL mondiale quest'anno al 4% e al 4,2% l'anno prossimo, peggiorano anche i paesi emergenti dal 6,5% al 6,2%, e poi chi arretra di più purtroppo è l'area euro, ossia per quest'anno crescerà non più all'1,7% ma all'1,3%, e l'anno prossimo non crescerà più all'1,9% ma all'1,4%, mezzo punto percentuale in meno, vuol dire un dimezzamento delle stime di crescita, praticamente pari a un quarto rispetto alle stime iniziali. E anche l'Italia crescerà di meno sia quest'anno che soprattutto l'anno prossimo. Nel 2012 la nostra crescita sarà forse una non crescita, nel senso che ci avviciniamo alla stagnazione secondo il Fondo Monetario Internazionale, invece che lo 0,7 che era già il frutto di una revisione a ribasso, arriveremo a uno 0,5%, e quest'anno invece che l'1,1 arriveremo allo 0,8%. Sì, concordo con alcuni ascoltatori che dicono: beh, più che un gallo oggi sarebbe un cappone o un gallo senza cresta. Noi il cappone non lo mandiamo in onda. Dicevamo invece della Germania, oggi appunto le dichiarazioni al Bundestag di Angela Merkel. La cosa interessante è che oggi il presidente del Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, il fondo appunto salva stati come è stato chiamato, e mi riferisco a Klaus Regling, ha detto, ed è tedesco come capite, ha detto l'Italia e la Spagna non vogliono il salvataggio e in particolare l'Italia ha un forte incentivo ad agire. Sarà anche così, però oggi faccio notare che è tornato al nuovo record lo spread tra le obbligazioni tedesche e quelle greche a 1818. Praticamente un'obbligazione greca o la Grecia, per riuscire a trovare finanziatori per il suo debito, deve offrire il 20% di rendimento. Rispiego la frase sul dimezzamento del Fondo Monetario. Il Fondo Monetario prevedeva per l'area euro l'anno prossimo una crescita intorno all'1,9%. Siccome prevede adesso all'1,4%, ha ridotto di uno 0,5% come crescita. Ma se andiamo a vedere le proporzioni, ha ridotto di un quarto, quasi un quarto, la stima. Per cui non è una bella notizia. Una buona notizia invece, oltre che da Termini e Merese, arriva anche dalla classifica mondiale del World Economic Forum, stilata come ogni anno, sui paesi più competitivi. Allora, noi restiamo bassi, però, visti i chiari di luna e l'assenza di notizie positive, prendiamo con entusiasmo il fatto che siamo saliti dal 48esimo al 43esimo posto, cioè 5 punti in più. E il numero uno resta la Svizzera, come campione mondiale della competitività, e poi c'è Singapore e la Svezia. Si scambiano Singapore e la Svezia al secondo e al terzo posto. Davanti a noi restano però Malesia, Porto Rico e Repubblica Ceca, ma anche le Barbados e le altre principali economie occidentali, ma abbiamo recuperato 5 posizioni. Come va il nostro spread, ossia quanto costa a noi finanziare il nostro debito rispetto a quanto costa la Germania? Più un paese a rischio, più deve offrire rendimento. È un po', ripeto ogni volta, come il tasso che ti chiede una banca se chiedi un prestito. Più sei a rischio, più è alto il tasso o la garanzia che ti chiede. Allora, la differenza tra noi e la Germania è scesa anche sotto i 350 punti, ma resta sopra i 300 punti, che non è una bella soglia. Siamo a 348 punti, aveva superato i 360, siamo a 348, e oggi il Tesoro italiano ha riacquistato titoli di Stato per complessivamente 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il valore della manovra, volete sapere, adesso arriviamo alla manovra finanziaria, sale complessivamente a 54 miliardi nel 2013, l'anno in cui è fissato il pareggio di bilancio. Questo è l'impatto sull'indebitamento netto e è il risultato della somma tra i 49 miliardi indicati dalla relazione tecnica al decreto e i 4 miliardi e 400 milioni indicati nella relazione tecnica diffusa oggi e relativa al maxi emendamento. Fiducia stasera al Senato intorno alle 20. Partiamo con il primo tema, e cioè la parte più consistente delle novità di questa manovra. Riguarda non i redditi sopra i 300.000 euro, il gettito è molto molto basso, quello atteso, ma ovviamente l'IVA dal 20 al 21%, 349-238-6666 per gli sms. Da quando scatta l'aumento dell'IVA? Beh, scatta a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, dal giorno successivo in cui viene pubblicata la legge sulla Gazzetta Ufficiale. Dicevo, delle varie voci che compongono la finanziaria, poca roba arriva dalla tassa sui paperoni al 3%, perché a regime stiamo parlando di 53 milioni nel 2012 da questo contributo di solidarietà, e 144 milioni nei successivi due anni, quindi 70 milioni all'anno. Dalle pensioni alle donne che verranno alzate appunto dal 2014 in poi arriveranno risparmi per 90 milioni nel 2015, che saliranno progressivamente a 720 milioni nel 2021. Arrivarci. Il maxiemendamento provoca anche, scusatemi, proroga anche l'accertamento su chi ha pagato i condoni del 2002, cioè l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno, per cui l'accertamento per vedere se si è pagato o no, si sono pagate o no le varie rate di quel condono slitta di un anno. E le nuove misure, secondo Olli Rehn, commissario europeo agli affari economici e monetari, rafforzano l'Italia. Allora, aliquota dal 20 al 21%, ne parliamo con chi ne è direttamente interessato, quindi il mondo del commercio, in questo caso la Confesercenti, il presidente Marco Venturi, buonasera. Buonasera. Allora, presidente Venturi, è chiaro che insomma, la manovra che va a impattare sul mondo del commercio, come quella dell'IVA, è la parte, la misura, dicevo, è la parte della manovra delle novità introdotte più consistente, 4 miliardi e 200 milioni. Mi siete sembrati abbastanza rassegnati alla cosa, come se fosse ineluttabile a questo punto? Beh, rassegnati no, certo, non siamo noi che dobbiamo decidere la manovra e quindi abbiamo preso atto che il governo ha fatto questo passaggio nonostante le nostre considerazioni, le valutazioni negative che abbiamo fatto su questo intervento. E agire sull'IVA in un momento in particolare come questo in cui i consumi sono in frenata, quindi abbiamo dei problemi anche di crescita economica, perché consumi vuol dire anche crescita dell'economia, per noi è un, diciamo, è un passaggio, un passo negativo che viene fatto, insomma, quindi noi dobbiamo pensare a recuperare le risorse necessarie, ma ne recuperiamo ancora di più se cresciamo, e soprattutto ci preoccupa anche questo provvedimento, il peso sul turismo. Noi sono anni che poniamo il problema di ridurre l'IVA sul turismo perché i paesi concorrenti dell'Italia hanno l'aliquota più bassa. La risposta è quella, per un motivo più generale, però di un aumento dell'aliquota, quindi siamo doppiamente preoccupati, ecco perché c'è la nostra opposizione. La preoccupazione, l'impatto sulle famiglie, insomma, viene calcolato dai 50 ai 100 euro in più all'anno, sommando appunto un punto percentuale in più di IVA sull'abbigliamento, sul mobilio, elettrodomestici, trasporti, il tempo libero. Poi c'è la parte che riguarda invece la Robin Tax sull'energia, che rischia poi di scaricarsi sul consumatore finale. Comunque si va da 40 a 120 euro come aggravio in più ogni anno a famiglia. Se uno è single 40, più o meno, se uno ha una famiglia più o meno sui 120 euro. La domanda però è un'altra. Chiaramente voi scaricherete il punto percentuale in più sul prezzo finale. Non c'è il rischio che molti temono che vengano fatti arrotondamenti, cioè invece che 21 euro e qualcosa si arrivi a 22 euro, cioè che ci sia la tentazione poi di aumentare oltre il valore dell'IVA? No, io sono convinto che non solo non succederà, ma che molti imprenditori saranno costretti comunque a rivedere il prezzo, a rinunciare, diciamo, un pezzo del loro utile per riuscire a cercare di mantenere, diciamo, i consumi in un certo livello, perché il problema del commerciante, dell'imprenditore, non è solo quello dell'incasso immediato, ma è quello di mantenere, diciamo, un livello di consumi nazionale che consenta anche una durata nel tempo della crescita. E questo mi pare che manca, cioè quello che non è stato, sì, capisco l'emergenza, però siamo alle solite, cioè non si è in grado e non si vuole intervenire sui costi, e quindi sui costi della politica in particolare, e quindi alla fine ci si riduce a fare questo. Questo è il punto, il nodo. Perché si fa con urgenza un intervento sull'IVA e non si fa sul Parlamento, sul numero dei parlamentari, sulle province, sulle comunità fermo restando che i saldi non sono uguali, cioè la nostra politica costa tanto, ma non costa 4 miliardi. Guardi che non è vero, perché se contiamo solo l'effetto sul primo anno sono d'accordo, ma se noi mettiamo a regime, per esempio, l'abolizione delle province, quando abbiamo eliminato tutto e i dipendenti li passiamo negli altri enti e nello Stato, mano a mano che vanno in pensione, perché sono migliaia che ogni anno vanno in pensione, noi abbiamo recuperato 7 miliardi solo dalle province. A regime, sì. A regime, esattamente, e quindi poi le comunità montane e poi tutto il resto. Questo è il punto. L'impressione nostra è che non è il fatto dei conti per cui non si fa, è perché la politica vuole recuperare dagli altri ma non da se stessa. Io non volevo mettere in discussione, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, il valore anche simbolico di un taglio ai costi della politica. Ci mancherebbe, è difficile chiedere al paese di stringere la cinghia se tu te l'allarghi, fatemi fare la battuta, grazie anche ai costi del menù della Camera e del Senato. Però volevo dire che in questo momento gli osservatori internazionali, i mercati, ma non solo, si attendevano misure immediate di riduzione. Lei dice c'è poco sulla spesa pubblica, lei sarebbe stato più a favore di un aumento dell'età pensionabile un po' più consistente, cioè con tempi meno lunghi rispetto al 2014 o no? Pensioni si vada verso un aumento dell'età, su questo mi pare già deciso e normale, perché aumenta la vita media delle persone e quindi è naturale che ci sia questo. Però voglio dire, anche lì dobbiamo evitare di fare solo per cassa, cioè ci siamo ridotti a un'emergenza che certo la colpa non è né dei pensionati né degli imprenditori né dei consumatori, dei cittadini, c'è un ritardo della politica, stiamo pagando questo. Insomma, lei per la crescita cosa avrebbe fatto? Perché ho capito, dice riduciamo i costi della politica che a regime valgono 7 miliardi solo per le province e le comunità montane, ma questo però a regime, e sappiamo tutti che non si possono eliminare, come anche lei ricordava, i dipendenti delle province, si tratta di bloccare il turnover negli statali, quindi a regime vuol dire fra qualche anno. Ma nell'immediato lei che cosa avrebbe chiesto o voluto per la crescita? Ma guardi, intanto non è così, perché noi ogni anno abbiamo uscite di migliaia di dipendenti che possono essere sostituiti in quel modo, quindi noi potremmo avere dei rapidi recuperi che noi facciamo, quindi non necessariamente lo dovevamo fare sull'IVA. Gli interventi di tagli si possono fare anche subito, perché sul CNEL per esempio hanno deciso e il taglio è già stato di fatto fatto, che entrerà in vigore già dal prossimo anno. Cioè, dove si vuole colpire si colpisce subito, dove non si vuole colpire non si colpisce subito. Questa è la cosa che indispone in qualche modo noi, ma non solo noi. Insomma. Sì, no, ma dicevo, Presidente Venturi, sulla crescita, no, ho capito benissimo quello che dice, insomma, non c'è stata la volontà, anche il dimezzamento dei parlamentari è andato in cavalleria, la legge sulle province diventerà una legge costituzionale, quindi vedremo se ce la farà questo governo, se ce la farà il prossimo, insomma non è cosa di questi giorni e dei prossimi mesi. Ma sulla crescita lei immaginava una misura di che tipo? Ma guardi, non certo di origine di carattere fiscale, perché obiettivamente non è che possiamo pensare di sanare i conti con questo meccanismo. Sulla crescita poi bisogna andare addirittura a una riduzione della pressione fiscale, lo diciamo da tempo, l'IVA è più alta degli altri, l'IRPEF è più alta degli altri. Voglio dire, se non si affronta il nodo spesa, la pressione fiscale non si riduce. Questo, però qui non stiamo parlando con chi è arrivato ieri nel governo, né del centro-sinistra né del centro-destra, e quindi sono cose che ci trasciniamo e che nessuno ha mai voluto risolvere, nonostante le nostre insistenze, le nostre richieste, e quindi adesso non possono arrivare come le verginelle che fanno le cose che devono fare, perché non si è potuto fare diversamente. Insomma, questa è la cosa che vi irrita. Sull'assenza o comunque l'annacquamento forte delle liberalizzazioni e privatizzazioni? Beh, anche qui, ecco, quello era uno dei campi su cui invece si poteva accelerare, quindi forzare ancora di più, perché anche quella è una fonte importante di risorse che potrebbero arrivare proprio per l'abbattimento del debito. Mm-hmm. e probabilmente anche inserendo una maggiore efficienza nei servizi, perché sarebbe una cosa importante. Non solo in termini quindi di immediati economici, ma diciamo anche di funzionalità, perché è fondamentale che poi ci sia una funzionalità complessiva del nostro sistema, dello Stato, che aiuta la crescita, aiuta la fiducia, aiuta per esempio il turismo, perché venire in Italia a trovare sistemi di varia natura non funzionanti, è chiaro. Quindi nel salutarla, visto che però continuano a chiedere solo gli ascoltatori, mettiamola così, lei è abbastanza convinto del fatto che i suoi associati non arrotonderanno verso l'alto il punto percentuale di IVA in più? Ma no, come non lo arrotonderanno? Noi non siamo i rivoltosi, noi non siamo d'accordo su come è stato impostato. Se poi c'è la legge dello Stato che dice così, noi applicheremo. No, dico che magari invece che 21 euro non diventi 22 euro, questo temono gli ascoltatori. Guardi, i miei associati non sono stupidi, in un momento di crisi così forte dei consumi c'è poco da alzare. Quindi non credo che sia un problema che non esiste. Poi non voglio parlare di eccezioni e di singoli, non è quello che ci interessa, però assolutamente non c'è la volontà, ma non ci sono nemmeno le condizioni per pensare ad aumenti di prezzo, anzi per cercare di vendere e non tenersi tutto in magazzino. Si faranno sicuramente degli sforzi più al ribasso che al rialzo. Ce lo auguriamo, e staremo anche a vedere poi sui dati sull'inflazione. Grazie al Presidente della Confesercenti Marco Venturi. Arrivederci. Non lo so, li vedo gli sms. Io l'ho detto fin dall'inizio, a me sembra che il mondo del commercio, giudicando anche appunto da quanto ci ha appena detto il Presidente Venturi, da quanto ha dichiarato la Confcommercio, sia abbastanza rassegnato a questa IVA al 21% e non abbia, sono d'accordo con alcuni ascoltatori, grandi idee di cosa si sarebbe potuto fare, anche perché insomma l'alternativa all'aumento dell'IVA era una stretta ancora di più sull'evasione e sul fisco, e non mi sembra il caso per il mondo del commercio. Noto che molti di voi restano molto scettici sul fatto che il mondo del commercio non vada ad aumentare poi più del dovuto quello che è il rincaro dell'IVA, quindi dal 20 al 21%, che non vi siano arrotondamenti verso l'alto. Ripeto, staremo a vedere se vi dovessero essere e se tutto dovesse funzionare correttamente, li dovremo vedere nel dato finale sull'inflazione e quindi sull'andamento dei prezzi al consumo mese per mese. Adesso però il meteo, la pubblicità, poi la borsa e poi invece parliamo con chi ha deciso di investire pesantemente a Termini Imerese, praticamente rilevando, se ho ben capito, tutto lo stabilimento della Fiat. Un pazzo, direte voi, ma non è necessariamente così. Il meteo. Minuti, torneremo sulla manovra economica. Ripeto, inutile che continuate a scrivere, ma insomma anche i commercianti non hanno proposto niente. Non mi sembra che sia arrivato dal Confesercenti chissà quale proposta. Io l'ho trovata un'intervista abbastanza rassegnata in cui si è detto vabbè, potevano essere tagliati i costi della politica. Su questo siamo d'accordo, sia come elemento di valutazione così economica, i costi ci sono, ma anche e soprattutto su l'elemento simbolico. Insomma, vedere che la norma sul numero di parlamentari è stata annacquata, che sulle province si va a una legge costituzionale per cui non si va, visto i tempi delle leggi costituzionali, e che anche sulle liberalizzazioni, settore dei servizi pubblici locali, ma non solo, è sparito tutto. Beh, forse questo non è edificante. Molti di voi ci scrivono sulle pensioni. Alcuni nostri ospiti in questi giorni hanno sostenuto che assieme all'IVA o più dell'IVA servisse fare una manovra incisiva sulle pensioni, quindi innalzamento dell'età pensionabile. In Germania a 67 potevi tracciare una linea in questo senso. Sappiamo tutti, l'abbiamo raccontato, della netta opposizione della Lega all'aumento dell'età pensionabile. Sono d'accordo che la riforma iniziale, poi cambiata da Prodi, si chiamasse Maroni, lo scalone Maroni, e quindi è strano che adesso la stessa Lega la rifiuti, però questa è la situazione che vi abbiamo raccontato. Molti scrivono e ci chiedono se vi potrà essere bisogno di un'altra manovra della patrimoniale. Al momento, da quello che vediamo, no, con questi saldi. È chiaro che il debito va aggredito, a mio avviso, anche riducendo i costi della pubblica amministrazione anche su base locale, non solo aumentando le entrate, se no torniamo al solito problema. Comunque, vorrei darvi adesso un aggiornamento di borsa e poi sentiamo, perché dovremmo riuscire a raggiungere l'imprenditore che ha compiuto un investimento importante a Termini Imerese, e poi il commento vero e proprio lo facciamo dopo le 18, però intanto la chiusura di borsa. Ottima per Milano, devo dire che a questo punto supera anche Francoforte, quindi è la migliore borsa oggi in Europa, più 4,24%, Parigi più 3,60%, Francoforte più 4%, Londra più 3%, l'America ha dato una mano, il rialzo dell'1,6%. Ho detto all'inizio quanto la borsa sia, diciamo, inspiegabile secondo i criteri tradizionali, fondamentali di bilancio, fondamentali economici, lo si vede dal titolo Fiat. Fiat, dopo aver perso decine di punti in questi giorni, oggi guadagna, in assenza di notizie, sia in caso negativo sia in caso positivo, guadagna quasi il 9%, l'8,60%, e si avvicina a 4 euro per azione. Exor, e quindi la finanziaria della famiglia Agnelli che controlla il gruppo, guadagna l'8,13%, quasi 15 euro per azione. Pirelli guadagna il 7,36%, Saipem il 7,14%, il Banco Popolare più 7%, Estima Microelectronics più 6,30%, Tenaris più 6,26%, Monte dei Paschi più 5,78%, Buzzunice più 5,30%, Fiat più 5% come Mediaset e Unicredito. Luxottica più 4,80, Popolare di Milano più 4,70, Prismian più 4,5. Mi fermo con chi ha guadagnato più del 4, che sono UbiBanca più 4,44, Tods più 4,31, Enel, Green Power, ma anche Telecom Italia e Lottomatica più 4,2%, Eni e Generali più 4%, ma anche Finmeccanica. Intesa San Paolo più 3,81%, e come dicevamo, buono recupero ma non sufficiente. Unicredit, anch'essa il rialzo non è sufficiente a recuperare quanto perso nei giorni scorsi, ma di quasi il 5% appunto. Chi perde? Campari meno 1,70, Parmalat meno 0,50%. Mi fanno segno che allora siamo in collegamento con l'imprenditore. Facciamo una cosa, traffico lo anticipiamo di un minuto e poi cerchiamo di capire come mai, visto che la Fiat chiude a Termini Imerese a fine anno, c'è qualcuno che rileva praticamente il suo stabilimento e i suoi dipendenti. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, dicevamo, al di là della borsa, la buona notizia di oggi riguarda anche il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere quali sono le imprese selezionate per insediarsi nello stabilimento che la Fiat lascerà a fine anno, sia quello siciliano di Termini Imerese. Eh sì, perché come dicevamo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto le 5 aziende che prenderanno il posto della Fiat a Termini Imerese, dove attualmente la Fiat ha 1350 dipendenti, produce la Lancia Y e però terminerà la produzione a fine 2011. Le 5 aziende sono Med Studios, che fa produzioni TV, Newcop, che è una piattaforma logistica per la grande distribuzione, Lima Group, produce elettromedicali e protesi sanitarie, Biogen, energetico e biomasse, e DR, che è un gruppo automobilistico. Non a caso si chiama DR Automobiles Group. Siamo in collegamento con il presidente, nonché fondatore, Massimo Di Risio. Buonasera. Buonasera. Voi avete, dunque, siete nati nel 2006 e producete a Macchia di Isernia in Molise, e poi avete anche una sede a Shanghai, 200 dipendenti diretti e altri 200 come indotto, è corretto? Corretto. Allora, che cosa fate voi? Noi costruiamo automobili. È dal 2006 che abbiamo iniziato questa avventura, produciamo attualmente due modelli, la DR5 che è un SUV compatto e la DR1 che è una city car. Ah. E avete anche una sede a Shanghai, perché? La sede a Shanghai perché noi assembliamo macchie di Sernia, sì, componenti acquistati in tutto il mondo, ma prevalentemente in Cina, come d'altronde molti costruttori di automobili. Quindi acquistate in Cina? Acquistiamo componenti, componenti in Cina. E come le vendete queste auto nel territorio italiano? Avete dei concessionari, immagino? Abbiamo una rete di concessionari, quasi 100 concessionari in Italia, uno per provincia, e una rete di officine per quanto riguarda l'assistenza di oltre 200 punti. Visto che non sono stati dei grandi anni per le immatricolazioni, come sono andate le vostre? Quanti modelli avete venduto in questi anni? Noi abbiamo venduto, come dicevo, due modelli e al momento abbiamo venduto oltre 10.000 vetture. Uh-huh. In crescita, in calo? In crescita rispetto al mercato. Nel 2010 abbiamo venduto il 112% in più rispetto all'anno precedente. Non male. E come mai? Come avete fatto? Così lo spieghiamo anche alla Fiat. È anche abbastanza semplice, voglio dire, perché noi partiamo da zero. A giudicare dai numeri. È facile conquistare delle quote di mercato per chi parte da zero, per chi invece le deve conservare come Fiat è molto più difficile. No, apprezzo la sua diplomazia e anche correttezza, ma la mia era in parte una battuta, in parte no, perché se la Fiat ci volesse far sapere i modelli con cui vuole uscire, leggiamo tanto, ma insomma, modelli ancora latitano quest'anno. Che cosa volete fare a Termini Imerese? Noi a Termini Imerese produrremo 4 modelli. Quindi oltre alla la DR5, la DR1 e altri 4? E altri 2? Produrremo la nuova DR1, la DR3, che è un segmento B, una simil punto per intenderci, la DR4, che è un simil Bravo, e il nuovo SUV DR5. Che è un simil cosa, visto che mi sembra che vi siete Prima mi sono ho fatto un paragone con le vetture Fiat, la Fiat non ha un SUV, per intenderci un Nissan Qashqai. Ma mi sembra che ce l'abbia un SUV la Fiat adesso, che si chiama Free qualcosa. Il Fremont, è un SUV, ma non è un SUV compatto perché di dimensioni molto più grandi rispetto al nostro. Comunque, questo andrà a incidere e quindi a ridurre la produzione ai dipendenti in Molise, macchie di Sernia? Assolutamente no. E quante persone... Perché... Prego. Noi contiamo di aumentare il numero di dipendenti anche nel Molise. Ah, di aumentare. E quante persone assumerete a Termini Imerese? Nell'arco di 4 anni, 1.300 persone. Però... Tutti quelli praticamente... Cioè tutti i dipendenti Fiat quasi, tranne 50 mi sembra. Sì. Praticamente sì. Quindi voi prenderete tutta la parte, siete l'investimento più grosso nella zona, nell'ex stabilimento Fiat, se ho ben capito. No, noi prendiamo tutto l'ex stabilimento Fiat, perché le altre aziende che partecipano al contratto svolgeranno la propria attività nell'area industriale di Termini Imerese, ma al di fuori dell'impianto Fiat. E quanto riceverete dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla Regione Sicilia? Come contributo? È abbastanza difficile quantificare questi importi perché ci vengono dati a vario titolo, però certamente c'è stato un grosso impegno da parte della Regione Sicilia, da parte anche del Ministero. No, perché a noi risultava che l'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione Sicilia prevedesse lo stanziamento di circa 178 milioni a favore vostro, tra contributi, finanziamenti agevolati, aiuti all'occupazione. Ripeto, è abbastanza difficile da quantificare, potrebbe essere, è una cifra che ci va vicino, dando la giusta interpretazione potrebbe anche essere questa la cifra. E voi quanto investirete lì? Più o meno altrettanto, circa 150 milioni. Quindi 1.300 dipendenti che vanno riassorbiti. Avete già una stima, immagino, di quanti modelli produrrete tra, a questo punto, Termini Imerese, mi scusi, quanti automobili venderete tra Termini Imerese e macchie di Sernia? Perché lei mi diceva che attualmente sono 10.000 l'anno, no? Sì, a noi a regime contiamo di arrivare a produrre 60.000 vetture. Entro quando, più o meno? Cioè, come idea? Entro 4 anni. Entro 4 anni. Mi dica una cosa, insomma, lei ha investito in termini merese, ha fatto male quindi la Fiat a chiuderlo con l'impianto? No, ma sono due realtà troppo diverse, non possiamo fare paragoni di questo tipo. Beh, però insomma, lei produce automobili. Noi abbiamo un modello produttivo molto diverso dal modello Fiat, ma ragioniamo anche in termini di volumi molto diversi. Fiat probabilmente non aveva alternativa. La trovo molto diplomatica, non è che voglia che non voglio che lei critichi la Fiat, no, ma mi chiedevo come mai. No, ma guardi, il motivo è questo: come quasi tutte le industrie automobilistiche nel mondo, tutte hanno un esubero di stabilimenti, e questo anche la Fiat, e questo è valido anche per la Fiat. Quindi la Fiat non riesce ad ottimizzare il lavoro in nessuno degli stabilimenti che ha, probabilmente in Italia, riducendo il numero di stabilimenti riuscirà ad ottimizzare il risultato e ad essere più competitiva. Ma sì, perché però lei dice sono due realtà diverse, ma voi fate auto come le fa la Fiat, volete produrre segmenti che lei citava, appunto segmento punto, segmento bravo. Noi però abbiamo un modello produttivo molto diverso, come le dicevo, tutta l'industria automobilistica mondiale ha perlomeno 100 anni di storia alle spalle. No, ma ho capito, ma e quindi no, tutto questo si portano dietro strutture, stabilimenti acquisiti negli anni, certo. Scelte anche. No, ma io volevo capire, lei ha scelto Termini Imerese perché c'erano gli aiuti della Regione Sicilia e del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi insomma ricevere 178-170 milioni non è poca cosa. Ma senza questi aiuti le avrebbe investito lo stesso lì? Per un'azienda che produce automobili e che ha bisogno di realizzare un impianto di produzione, avere l'opportunità di trovare un impianto di produzione già pronto, un impianto di produzione come quello di Termini Imerese, ma soprattutto con maestranze molto specializzate, per noi è stato un colpo di fortuna, se vogliamo definirlo. No, ma mi interessava perché insomma le saranno in primo luogo grati i 1300, le 1300 famiglie in cui che hanno un parente che lavora da voi e che verrà assunto da voi appunto a regime, e sono gli stessi dipendenti della Fiat, ma anche l'indotto, perché immagino che poi mantenere lo stabilimento di produttivo dell'auto a Termini Imerese significhi poi anche mantenere l'indotto in un'area. No, certamente sì, non solo mantenere l'indotto, ma anche sviluppare l'indotto. Certo. Senta, ma lei insomma, com'è che le è venuto in mente di produrre auto 4 anni fa, no? Lei ha iniziato 4-5 anni fa, un settore saturo in cui Marchionne continua a dire che ne resteranno solo 6 al mondo, le immatricolazioni che non vanno benissimo, cioè, una follia? Sì, è una domanda abbastanza complessa, però le rispondo brevemente. Intanto il mercato dell'automobile in Italia, anche in un momento di crisi, si gira intorno a 2 milioni di vetture l'anno, che comunque sono tante, e quindi c'è spazio per un piccolo costruttore come il nostro. La nostra aspirazione, come dicevo, a regime di fare 60.000 vetture, 60.000 in un mercato di 2 milioni di vetture non sono poi tante. Allora facciamo una cosa, perché mi interessa molto anche, e poi mi interessa sulle prospettive, visto l'investimento, ripeto, 178 risulta a noi milioni tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Sicilia, che permetteranno anche questo investimento. Mi interessa per i dipendenti, per i 1300 dipendenti ex Fiat o che saranno ex Fiat, e anche perché è un modello produttivo, scrivono alcuni ascoltatori, in realtà voi vi limitate ad assemblare pezzi prodotti in Cina, devo dire che l'ha detto, per cui non è un mistero, è un modello produttivo interessante. Resti con noi perché adesso c'è il GR e poi vorrei concludere questa intervista per capire anche le vostre prospettive, perché un investimento del genere, la speranza più grossa, per essere buoni, è che non sia un investimento mordi e fuggi, cioè che vi sia proprio una prospettiva di crescita anche sulle immatricolazioni. Resti con noi, c'è il GR, poi la borsa e poi il commento alla finanziaria. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra pochissimo arriveremo anche al commento di borsa, l'aggiornamento lo abbiamo già dato, ottima visti i tempi, la giornata più 4,24% Milano, che si conferma la migliore in Europa, segue Francoforte con un più 4%, dicevo, poi la borsa e anche l'analisi della manovra. Vorrei però concludere l'intervista, visto che è ancora in collegamento, con Massimo Di Risio, per chi ci stesse ascoltando da pochi secondi. è uno dei 5 imprenditori che si insiederanno. Oggi il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere i nomi, le 5 aziende che si insiederanno a Termini Imerese da fine anno, quando la Fiat chiuderà lo stabilimento di Termini Imerese. 1300 persone, ci ha appena chiarito che verranno tutte riassunte nel corso del tempo dal stabilimento di Dirisio, che è appunto la DR Automobiles Group. Una cosa volevo capire, Dirisio, insomma, visto che la Fiat chiude a Termini Imerese e sostanzialmente sta rivalutando tutti gli stabilimenti produttivi in Italia, a lei come le è venuto in mente di produrre auto e come mai, cioè perché pensa che lei dovrebbe avere successo in quello stabilimento? Ecco, stavo appunto dicendo questo. Il modello produttivo nostro è assolutamente innovativo. Noi produciamo automobili assemblando componenti già esistenti sul mercato. Ho capito. Però le assemblate in Italia. Assembliamo in Italia. E quindi questo ci consente di realizzare prodotti investendo molto meno e quindi questo ci consente di essere più competitivi degli altri a parità di tecnologia. Però appunto, è un modello produttivo assolutamente innovativo. Questo. Sì, no, tra l'altro è un modello che di solito vediamo che le componenti arrivano in Cina e vengono assemblate in Cina perché costa meno. Voi fate l'opposto, le comprate dalla Cina e le assemblate in Italia. E questa è la sfida che lanciamo, bella. Che vogliamo lanciare. Noi le nostre vetture vogliamo produrle in Italia usando componenti cinesi e riteniamo che ottimizzando l'attività, ottimizzando anche l'impianto produttivo e contando molto sul risparmio, sul trasporto e evitando i dazi, possiamo riuscire a contenere i costi e continuare ad essere competitivi. Per concludere, le immatricolazioni come stanno andando adesso negli ultimi mesi? Si riferisce al mercato generale? Al mercato italiano, sì. E il mercato italiano è le vostre immatricolazioni abbastanza in crisi. Le nostre immatricolazioni sono in linea con quelle con quelli che erano i nostri programmi. Quest'anno per noi è un anno di transizione perché ci siamo concentrati più nella realizzazione dei prototipi da portare in produzione a Termini Imerese che su altro. L'anno per fare volumi non sarà sicuramente questo, ma l'anno prossimo. Però voi continuerete ad assumere. Le vostre auto escono a un prezzo, mi scusi l'ignoranza, più basso, più alto di quelle dei concorrenti? Più alto rispetto a tutte le concorrenti. Quindi Fiat, Renault, Peugeot? Un 10-15, anche 20% in meno rispetto alla concorrenza. Cioè costate un 10% in più? In meno rispetto alla concorrenza. Escono a un prezzo più basso allora? Escono a un prezzo più basso. Ah, ho capito male, mi scusi, un prezzo più basso. E come fate a uscire a un prezzo più basso del 10%? Come le dicevo, per queste perché ragioni. Comprate le componenti a Shanghai in Cina? Perché evitiamo tutti i costi di sviluppo di tutti i componenti e perché abbiamo anche una struttura molto snella. Bene. Dottor Dirisio, in bocca al lupo, intanto perché lei è entrato in un settore che insomma, definire maturo è quasi un eufemismo, ma tengo presente che io ci sono nato in questo settore. Eccola lì, allora da dove arriva lei? Lei viene dalla Fiat? No, non ero nella Fiat, ma ho gestito per 25 anni concessionari di tutte le marche. Anche Fiat? Anche Fiat, ma non solo Fiat. No, ho capito, di tutte le marche, non solo Fiat. E poi ho nasco come pilota da corsa, quindi una certa quindi il rischio le piace, mettiamo così. Il rischio calcolato le piace. No, in bocca al lupo a lei, soprattutto ai dipendenti tra poco ex Fiat di Termini Imerese che verranno assunti dalla DR Automobiles Group. Grazie al fondatore e presidente Massimo Dirisio. Grazie a lei, buonasera a tutti. E adesso la borsa. Vedo tra gli ascoltatori molto scetticismo sull'investimento di Massimo Dirisio. Allora, per carità, vedremo. La cosa che più ci interessa, e glielo abbiamo chiesto più volte, è che questo investimento sia serio. Devo dire che ha anche affermato in maniera abbastanza chiara, per chi l'ha voluto capire, che chiaramente l'incentivo, chiamiamolo così, 178 milioni, lui la cifra non ce l'ha voluta dire precisamente, ma a noi risulta che sia 178 milioni, che danno la Regione Sicilia da un lato e il Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati un elemento fondamentale per la scelta di andare a investire a Termini Imerese, vedo molte critiche sul fatto che non sono produttori ma assemblatori. Sì, l'ha detto, cioè ha spiegato che comprano le componenti in Cina, le assemblano in Basilicata e adesso le assembleranno anche, oltre che a Macchia di Serni, in Molise, scusatemi, le assembleranno anche a Termini Imerese. L'ha detto, non ci trovo nulla di strano, insomma. Va bene, registro il vostro scetticismo su questo. Intanto Eleonora Micheli ci racconta non lo scetticismo ma un cauto ottimismo dei mercati. Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo già raccontato le variazioni percentuali, più 4,24% e anche i vari titoli. Il motivo è stata la produzione industriale tedesca, oggi migliore di ogni attesa, che ha fatto dire anche la Merkel, la Germania resta la locomotiva d'Europa, invece o la bocciatura della Corte Costituzionale tedesca all'ipotesi di bloccare i finanziamenti, gli aiuti tedeschi alla Germania o la nostra finanziaria? Ma guarda, sono una serie di fattori. Innanzitutto ieri è stato annunciato nella notte praticamente il piano in America da circa 300 miliardi a sostegno dell'occupazione, che verrà domani annunciato nel dettaglio dal presidente Barack Obama. Poi sono arrivate tutta una serie di buone notizie in Europa e soprattutto è stata apprezzata quella sulla Corte Costituzionale tedesca, che ha respinto il ricorso contro la partecipazione della Germania al fondo salva stati. È molto importante, in quanto fino ad ora c'era una totale incertezza anche sull'eventualità che la Germania partecipasse. Poi domani ricordiamo che si riunisce anche il Consiglio della Banca Centrale Europea e c'è chi scommette che l'Istituto comunque annuncerà la fine di una politica monetaria restrittiva e appunto abbracci una politica che invece favorisca la ripresa economica o comunque sì, scongiuri una frenata. Una serie di fattori che hanno portato, hanno dato in là gli ordini in acquisto, anche perché i prezzi sono molto bassi. Più che da saldo. Allora, Fiat e Pirelli, diciamo Fiat più 8,5, Exor più 8,13, Pirelli più 7,36%, al di là del fatto che è inutile trovare troppe spiegazioni in un mercato del genere, perché non è che Fiat abbia avesse qualche motivo per perdere il 10-15% in queste sedute e adesso abbia qualche motivo per guadagnare l'8 in una volta sola, c'è un ragionamento sui tassi di interesse, oltre al fatto che Marchionne oggi è stato nominato presidente di Chrysler, ma ampiamente nota la cosa, forse un ragionamento sui tassi di interesse che riguarda le società più cicliche, più legate al ciclo economico. In effetti sono andate bene proprio le società cicliche. Come hai detto tu, è inutile fare tanti ragionamenti, visto che fino a ieri erano quelle che erano vendute con maggiore convinzione. Comunque sono andate bene le Fiat, sono andate bene tutte le case auto europee, ma sono andate bene ad esempio anche le azioni di Pirelli, più 7,36%, o quelle di Prysmian, più 4,5%. Insomma, tutte le società più legate al ciclo, perché se fino a ieri si scommetteva sulla recessione, oggi si inizia a pensare che magari grazie all'intervento delle autorità mondiali, sia americane che europee, si scongiuri la recessione e magari appunto si inizia a parlare di una timida ripresa. Sì. Però appunto sono ragionamenti così molto a tavolino, molto anche delle volte pretestuosi. Un'ultima nota invece sul lusso, che anche in queste ultime giornate pesantissime sulla borsa sempre si è mosso bene e oggi non fa eccezione. Luxottica più 4,85%, Tod's più 4,31%, ferma Bulgari, ma insomma lì è un'altra vicenda, 0,08%. Del resto nei mesi scorsi le società del lusso sono quelle che hanno vantato i conti migliori. Ricordiamo che nelle scorse settimane, ma abbastanza di recente, Hermès ha di nuovo stupito con conti in grande crescita e migliori della sua storia. Ovviamente se l'economia rallentasse anche le azioni del lusso frenerebbero. D'altra parte proprio ieri Boselli, il presidente della Camera della Moda, ha detto che nel 2011 il comparto moda italiano dovrebbe mettere a segno una crescita del 4%. Certo, rivista sì, dalla precedente. Ha chiesto anche un aumento di capitale della Camera della Moda, ma è un'altra cosa, nel senso che lì i soldi mancano. Però il ragionamento è quello che ci facevi anche ieri. Vi do i migliori e i peggiori in assoluto, sono Mer Tecnimont. C'è qualche novità su Mer Tecnimont, che guadagna alla fine, ha guadagnato, un attimo che prendo il dato, il 9,51%? Ma non mi sembra che siano uscite particolari. Solo per sapere. E Green Vision meno 7,41, Ross meno 4, Crespi meno 4%, sono i peggiori in assoluto. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, in collegamento con noi. Allora, nessun grosso impatto dalla manovra sugli spread, forse sì, sono scesi sotto quota 3,50, restano sempre ampiamente sotto i 300 punti. Saluto intanto e ringrazio per averci raggiunto in studio Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera a te e a tutti voi. Domani voi cosa farete sulla manovra? Domani facciamo uno speciale manovra ai mercati di più di 20 pagine dove racconteremo nel dettaglio. Un libro praticamente. Quasi un libro, sì. Uno dei tanti che peraltro continueremo a pubblicare quotidianamente per parecchi giorni. Perché le novità e i fatti da condurre a sintesi della manovra sono molti, a cominciare da questa notizia nuova sull'IVA, sul contributo di solidarietà, sulle pensioni e tutto quello di cui avete ampiamente dibattuto. Quindi 20 pagine in allegato, diciamo, o no, dentro il giornale? No, sono 20 pagine di giornale. Stampare un libro, neanche la Gazzetta riesce così velocemente. 20 pagine nel giornale, dopo il traffico vorrei invece capire alcuni punti. Sicuramente, insomma, l'IVA qualche certezza sull'incasso la dà, è inutile girarci attorno. Abbiamo visto prima, all'inizio del programma, c'era un presidente della Confesercenti, Venturi, assolutamente rassegnato a questa IVA, per cui mi ha fatto quasi specie la rassegnazione dei commercianti. Il traffico però adesso. Strade in diretta. Sulla 9 Lenate Como Chiasso ci sono 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria tra Chiasso e Como Sud verso Lainate. Sulla 4 Brescia Padova ci sono code per lavori tra Soave e Montebello in direzione di Padova. Sempre per la presenza di un cantiere si rallenta sulla 26 dei trafori tra l'innesto per la 10 e Masone verso Gravellona Toce, quindi in direzione nord. Sul resto dei percorsi traffico intenso per i soliti spostamenti pendolari in uscita dalle grandi città, in particolare attorno a Milano, Roma e Genova. Prudenza sulla 30 Caserta Salerno per il fumo di un incendio di sterpaglia in scarpata tra l'Autosole e Nola. Infine la viabilità ordinaria, segnaliamo traffico bloccato sulla strada statale 309 Romea nella zona di Rovigo per un incidente all'altezza del bivio per taglio di Po in entrambe le direzioni. Ed è tutto, Strada in diretta, torna tra circa mezz'ora. Focus Economia. Minuti, ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Alberto Orioli, ci raccontavi, in quanto vice direttore del Sole 24 Ore, delle 20 pagine che domani il Sole dedicherà alla manovra nel dettaglio. Dacci però anche un giudizio, la parte positiva, perché insomma, vediamo anche quella che è la parte positiva di una manovra che sicuramente è stato un parto difficile, difficilissimo, ci è voluto il cesareo alla fine, intesa come sberle successive dei mercati, ma qualcosa di positivo c'è. Sì, di positivo c'è questo colpo di reni sull'IVA, un punto di IVA dell'ultima parte dell'aliquota, quella che dal 20% passa al 21%, è una cosa che anche noi come giornale avevamo chiesto più volte, tra le riforme strutturali da fare, perché garantisce sicuramente quel gettito sicuro che è gran parte della manovra di quest'anno e del prossimo anno, 4 miliardi e 9, oltre 4 miliardi, insomma, sì. Non è un tesoretto di poco conto. È chiaro che, lasciami dire, che manca completamente, come abbiamo sottolineato tante volte anche nei nostri editoriali, la parte dedicata allo sviluppo. Nonostante l'ultimo colpo di reni sulla copertura, sullo sviluppo non c'è niente. Adesso ci arriviamo. I consumatori oggi attaccano, devo dire che attaccano più i consumatori dei commercianti. Ora non vorrei essere troppo malizioso, però fatemela dire. Nel senso che sentire che il mondo del commercio dice vabbè, lo sapevamo, però potevano tagliare anche i costi della politica, e chi si arrabbia veramente sono i consumatori, fa venire il sospetto che tanto il commerciante riverserà integralmente, forse, speriamo di no, con qualche ritocco, l'IVA sul costo finale. In molti casi la spesa al commercio delle volte è quasi obbligata, e i consumatori dicono addirittura 385 euro in più, a noi risultava tra i 50 e i 100 euro. Ma al di là di questo, la fiducia comunque tardiva ma utile, aver messo la fiducia sulla manovra. Sì, anche questo fa parte della resipiscenza dell'ultimo istante, cioè i mercati avevano bisogno di certezze e di rapidità nelle decisioni per snebbiare questa confusione strategica che ha caratterizzato le scelte del governo dell'ultima fase, che tanto è vero che è stato ampiamente diciamo supplito, diciamo così, dal Quirinale e dalla BCE, quindi sì, esatto. ha rinunciato a una parte anche obiettiva di sovranità, se così possiamo dire, e questo fatto di aver scelto la fiducia chiude il cerchio di questo parto difficile, come lo chiamavi tu, ed è positivo indubbiamente. Col senno di poi si poteva mettere subito la fiducia e evitavamo il balletto di queste settimane. Devo anche dire che poi però il tentativo è stato di vedere se si arrivasse a una finanziaria più condivisa. Non mettere la fiducia infatti vuol dire poter emendare una finanziaria. Ci si è accorti che invece che essere più condivisa diventava una finanziaria elastico a seconda degli interessi che venivano coperti di giorno in giorno. Sulle pensioni, scusami se insisto, vedo molti ascoltatori che si arrabbiano. Io non ho mai detto di arrivare subito a 67 anni, ho detto semplicemente che si può immaginare, soprattutto per chi non deve andare in pensione nei prossimi anni a brevissimo termine, ma per le generazioni insomma, che non vanno in pensione subito, un innalzamento dell'età pensionabile, perché tanto ce lo chiede l'Europa e prima o poi dovremmo farlo, forse poteva essere una buona occasione. Sì, indubbiamente anche questo è un segnale positivo, quello di avere anticipato il percorso di adeguamento dell'età pensionabile delle donne e omologato a quello degli uomini. Ecco, ricordiamoci che è tutto qua, cioè l'anticipo di 2 anni di un percorso che entrerà a regime parecchi anni dopo. Sì, con un quello risparmio a regime, esatto, di 700 milioni, ma a regime vuol dire nel 2021. Esattamente, ora, quindi 2021. È una cosa che ha un arco di un decennio. Noi saremo qui, insomma. E quindi quello che manca è una visione più strutturale della revisione del welfare che aggredisca l'età effettiva del pensionamento, cioè che una volta per tutte affronti il tema della pensione di anzianità, cosa che ancora non è approdata al tavolo. Ecco, nel dire che Focus Economia sarà qui nel 2021 non è una minaccia, è un augurio. Comunque Alberto, per quello che riguarda invece le cose che si sono annacquate, usiamo un eufemismo. Allora, al di là delle pensioni, però lì c'è sempre stata un'opposizione netta della Lega e da un punto di vista politico non c'è una novità, c'è un mantenimento di quella che è un'esigenza di un partito forte nella coalizione di governo. Dove invece mi sembra di poter parlare di annacquamento è su tutta la parte che, ripeto, poteva non essere fondamentale per i conti, ma come esempio sicuramente serviva. Costi della politica, io non ho capito più niente sui costi della politica, dimezzamento dei parlamentari, pure qui mi sono perso, sulla praticamente le province, sappiamo che sarà una legge costituzionale, quindi anche lì andremo più avanti, ma insomma lì mi è sembrato che dopo il fumo, un po' tanto fumo e un po' poco pollo qua dentro. Sì, indubbiamente, non c'è nulla nella stesura del maxi emendamento e del decreto che prende corpo e verrà votato in prima lettura questa sera. È tutto affidato a un disegno di legge costituzionale per quanto riguarda l'abolizione delle province. Quanto al dimezzamento dei parlamentari non ce n'è traccia nemmeno nel disegno di legge costituzionale, per la verità. Questa cosa è sparita, è rimasta in mente dei, è stata sbandierata a lungo come contributo, diciamo così, della politica alla necessaria solidarietà che viene chiesta a tutto il paese. In realtà questa cosa è sparita. Non che dia grandissimi risparmi in termini di effettivi, di fondi, diciamo così, non spesi, perché non è una riforma che viene fatta per risparmiare cifre clamorose, però è sicuramente un segnale che il mondo della politica, che chiede sacrifici a tutto il paese, poteva dare con una maggiore nettezza al paese stesso, cosa che non ha fatto. E l'aspetto della crescita. Allora, la crescita sì, anche sugli albi professionali, tutto è stato molto anacquato. Allora, la crescita, fare la crescita per decreto è una cosa obiettivamente difficile. Quando si parla di crescita si pensa anche a liberare in qualche modo risorse. Allora io immaginavo, insomma, le liberalizzazioni e le privatizzazioni, ma soprattutto le liberalizzazioni liberano risorse. Si poteva scambiare un aumento dell'età pensionabile e dell'IVA con una diminuzione della pressione fiscale su lavoratori e imprese, la famosa e famigerata IRAP. Cioè, cos'è quando si dice crescita che manca? Perché la Confesercenti è stata molto vaga su questo, ma tu cosa immagini? No, io quello che immagino io è che immagina il giornale, che ha scritto più volte negli editoriali, addirittura esplicitato nel manifesto per la crescita che il Sole 24 ha pubblicato qualche tempo fa e che in parte ha anche orientato la discussione poi nella messa a punto finale della manovra. È innanzitutto appunto un affrontare il tema fiscale in modo strategico e a tutto tondo, diciamo così, perché è vero, la principale politica per la crescita è una politica fiscale che incentivi il lavoro e l'impresa. L'altra è quella che deve incentivare la ricerca, l'innovazione, la capacità, come dire, maieutica di un paese di attrarre, di tirar fuori i propri talenti e di promuoverli nel mercato, nel mondo. Insomma, non c'è nulla di tutto questo. C'è come chicca, in negativo, ahimè, il fatto che come clausola di salvaguardia, nel caso in cui non vadano a regime Italia e ministeri, viene prosciugato il poco che c'è di fondo per la diffusione della banda larga nel nostro paese. Ecco, questo, siccome verrà sicuramente sempre prosciugato, perché Italia e ministeri non sono stati esplicitati con la giusta razionalità e con il giusto dettaglio, e la spending review, che sarebbe la vera cosa certosina da fare con pazienza, è stata rinviata, sicuramente anche questi fondi della banda larga andranno a patrasso, e questo non va bene, è un segnale di come il governo ha trattato il tema dello sviluppo economico. Se andassero a patrasso sarebbe contenta la Grecia, che in questo momento qualunque fondo lo prenderebbe. No, ma al di là della battuta, è vero, e concludiamo nel ringraziare il vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli, ripeto, domani 20 pagine con la manovra nel dettaglio. È vero che sul fronte della tassazione sui redditi da lavoro, e quindi il cuneo fiscale, alleggerimento a imprese e soprattutto a dipendenti, e poi su scelte strategiche, lì si è sempre pronti a tagliare, sui ministeri, sui dipendenti ministeriali, sulle spese della politica, tutto molto molto annacquato, e sulle liberalizzazioni, addirittura sulle farmacie. Si è tornati indietro, mamma mia, che timori. La manovra di appena approvata è la manovra più pesante, batte anche quella di Giuliano Amato nel 1992, che valeva in euro 48 miliardi, erano 96 mila miliardi di vecchie lire, quindi andrebbero rivisti al valore reale, però al valore nominale i 54 miliardi approvati battono anche quella di Amato. Pensate che in 20 anni le manovre di sviluppo che hanno riguardato i conti pubblici italiani sono valse 438 miliardi di manovre di taglio, senza che si riuscisse a ridurre questa maledetta spesa pubblica improduttiva. Grazie Alberto Orioli, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.